andiamo. Magnetica sto usando di antenna. La tubo 2001. Ah, sta provando quella lì. La manto quando funziona, non so dove fa. Qua sta facendo bene. Meno male che c'è la tieni. Che mi ascolti. Andà bene mela, andà bene mela. Sono contento. Buttala via, buttala via. Sì, me la butto, buttala via. Tutto lo buttare via. Mi è saltato tutto i dati, mi è saltato, figurati, due televisori, l'antenna della TV, la mantova e il termico di casa che ha piato un buco. Figurati tu. Vabbè, già sei uscito bene, va. Meno male ce l'ho dato il 2001, almeno è stata, come si chiama? Per la finestra del tetto. Ah, beh, io come ci arrivo? Prova. Uno, due, tre, prova avanti, dimmi. Segnale 9, radio 5, sì. Allora va bene, dai. Ehi, a Giuseppe Rossetti, a Leoncino. Avanti, buonasera. Buonasera, Giuseppe. Ma non è Giuseppe Leoncino, Antonino? Sì, è lui. Ciao, Gio Maria. Ah, io sei tu allora. Vabbè, è da portato tempo, anch'io sto usando la tubo 2001, perché l'antenna bisogna fare una modifica. Era mai, l'ho portato, come mai? Ti sei deciso di entrare? No, perché diciamo, l'apparecchio d'Antonello, me lo stavo mettendo a posto, adesso l'ho ripreso per non stare fermo, hai capito? Ma ha fatto un po' due o tre telefonate, da parecchio però, e non mi hai risposto, ma se il numero hai cambiato. Sì, ho cambiato il numero, domani. Ah, ecco perché non rispondevi. Infatti ho chiesto a Antonello se c'era ancora in frequenza, ma ha detto sì, già sta bene già. Non ci sono problemi, domani. Già, Antonello già ce l'ha il mio numero, te lo fai dare da lui adesso e poi quando hai tempo già mi chiami. E se mi serve senz'altro, lo chiedo a lui allora e me lo faccio dare. Va bene, Giuseppe, fa piacere comunque, dai. Tranquillo, stai bene, sì. Questa portante. Quella portante. Attore, c'era la portante, chi è? Non lo so, sentito un bip solo, sentito. Ah, Giuseppe già sta uscendo bene. Ah, Giuseppe, allora non stavi uscendo. A volte esce, a volte no. la pista. Cerca di mettersela a posto piano piano, dai. Piano piano, io mai. Io c'è un punto. Lo buttano giù l'antenna, mi vuole essere almeno un 3, perché uno monta e con un 2 per non mantenere. E che antenna sei usata lì? Ma tu 2001 che avevo in macchina. Ah, vabbè. Oh, si ha fatto scala, 9.30 sì qua, è buono. Vabbè, siamo vicini. Abite sempre allo stesso punto, no? Vabbè, sto facendo il solito punto, sono già. E mi ha detto, è mancata anche adesso, vabbè. Allora mettergli la foce questo microfono. E lui che lo schiaccia bene il microfono di Giuseppe, dalla parte di basso. Allora, il PCC che lo abbassa bene lui. Ha drizzato quel dito, Giuseppe. Guarda a vedere, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, va bene, adesso mi va bene. Sei uscito di forzante, Giuseppe. Schiacciano bene il PCC. Guarda, vedi. 1, 2, 3. Antonello, non è il PCC, no, già è il PCC, fa, c'è il microfono. Sì, forse sta tirando troppo il cavetto, sta tirando del microfono. Bisogna controllarglielo, dai. Schiaccia. Dai, glielo puoi fare, tranquillo, dai. Che problema, fa questo. Ciao Luca. Di Gaffani, buonasera. Buonasera, Luca, buonasera anche a te. Buonasera a tutti, se mi sentite. E a voi arrivi qua, 9.20, io sto usando anche l'antenna della macchina attaccata fuori dalla finestra perché la Mantova è andata in tilt. Qualche problema l'altro giorno mi ha fatto un bel danno. Addirittura, cavolo. Allora, ti chiamo. Ciao, buonasera. Antonello ha sempre cambiato questa antenna, ragazzi. Una buona antenna. Mettiti una buona. Vabbè, dai, sono andata a salutare perché devo uscire, dai. Buona serata. Come è arrivato quel temporale, gli è passato qualche fulmine vicino, tu immaginate che io ci ho rimesso a casa due televisori, dovete vedere il buco che gli ha fatto dietro lo stampato dell'alimentatore, capito? L'altro era in stand-by, il televisore, ha fatto il tocco lo stesso e mi ha bruciato la schiena. Infatti non accende. E la Mantova quando lo inserisce, se inserisco il positivo riceve, se gli metto la bassa rimane muto il baracchino con QRM0. Strano, pensate se c'è qualche cosa che non funziona bene. Non è che sia saldato dalla... tocca la cosa, dall'attacco del piede, no? Allora, lo so, adesso quando c'è un minuto di tempo salgo su, se non mi sto la mano davanti alla televisione, non riceve più quella che ho pensato io, quella a fila di pesce. Devo controllare a vedere cosa è successo, magari si è staccato il filo, cosa ne so. L'antenna del baracchino, il positivo c'è perché manca la massa in pratica, capito? Quindi devo salire col test e controllare dal PL se fa massa col tubo, capito? Se no si sarà spaccato il PL in due, cosa ne so? Ma tu lì la puoi fare tranquillo, non è che devi salire all'ultimo piano, no? Se inizi la dico, che basta aprire la porta e sei fuori, che non te la puoi mettere a posto facilmente. Sì, vabbè, ma dobbiamo mettere la porta in due qua. Perché una volta che stacco la mano vado a poggiarla in terra e smontarla, capito? Montare la basetta lì sotto e vedere un po' cosa staccare tutti i radiali uno per uno e vedere cosa diavolo è successo. Viene sempre forse in due. Poi vedere un po'. Adesso quella migliore del tempo, perché ho visto che stasera stava l'uovo volando qua vicino a casa e poi adesso è sparito tutto. Mi sembra che domani ha segnato di nuovo fulmini, cosa ne so. La famiglia soprattutto già lo so, non è un problema di qui. Però bisogna farlo per forza in due. Io ne hai tempo, Antone, ne hai tempo a metterla a posto, io. Cazzo. E sono sempre questi problemi, fa. Evidentemente, ma cazzo, se ne prendo una nuova, E se ti tranquillo stai a tira che ti tira, cazzo. Con queste antenne vecchie ormai, cazzo. Funzionano, funzionano. Se ti prendo una nuova, sei tranquillo. E quando mi paga la lince, perché... per un mese non c'è niente adesso, capito? Me l'hanno sospesa per un mese, non so perché stanno facendo controlli, che c'è cosa cazzo di controlli stanno facendo, era muto fino a poco fa il telefono, quindi un po' di gente si deve essere incazzata nera, perché gli hanno sospeso la domanda, senza nessun motivo e senza nessun preavviso. Sì, è lo stesso problema di tanto tempo fa, sai, sempre quel problema, a momenti sì, a momenti no. Non sto uscendo, Antone, diglielo. Me ne sono accorto quando sto uscendo. Giuseppe, guarda nello spinotto del microfono che c'è agganciato a baracchino, a vedere se in fila lo sovente, evidentemente tu tirando si stanno staccando i fili. Li metti di nuovo dentro il cavettino. Ehi, guarda da dove adesso. Ecco, adesso va bene. Vedi un po'. Mi senti bene adesso, Giomarì? Sì, adesso va bene, dai. Adesso va bene. E fai come il tantonello, dai. Va, che faccio un attimo i quelli e ci sentiamo dopo, dai. Sì, via. Ecco, lo metto a posto tutto. Va bene. Sì. E allora, Antone, questo è quello che hai messo a posto, mio Antone. Sì, la panica che mi ha fatto soffrire è quello. Tanto l'ho messo a posto, figurati, anzi mi sono fatto da posto te, mi sono fatto così almeno nel caso dovesse capitare torna una cosa del genere, mi ordino spesso i pezzi da fuori, mi ordino, così ce li ho direttamente a casa, perché tanto qua sta salivi, nel fusaro e nel gettonino ci hanno componenti, quindi... Però stavo che si sono cazzo, prima aveva parecchie cose, cazzo. Adesso mi pare che si sia abbastanza, ma insomma che si sia abbastanza, dai. E adesso ha cambiato cosa, non è più fusato, c'è scritto GBC, c'è scritto, quindi ha preso la GBC in mano maschia, capito? Anche se ce l'ha ancora Tonino, ce l'ha evidentemente per carità, speriamo che gli venga in mente di ordinare componenti almeno. Sì, la GBC è morta, cazzo, per carità, cazzo, cazzo, hai visto, non si può nemmeno entrare, quello non sa nemmeno cosa sia, cosa non c'è in quel negozio, cazzo, come fanno, non lo so, peccato, cazzo. Di quella roba che non sa nemmeno cos'è, cosa è lui. Se è sempre fuori, è seduto fumando una sigaretta, non l'hai visto. Non ci stanno più nessuno, ci sta andando. Perché ne ha vergogna solo di entrare a chiedere. Ormai non ci stanno più nessuno. C'è solo tutta quella roba, impianti stereo, pezzi per componenti per impianti stereo, tappeti, ricevitori, tutta questa roba qui sta vendendo, cioè, lampade, cose LED, tutte le cazzate. quello c'ha tanta di quella roba, ma tanta, e non si può entrare, non l'hai visto? Io mi sembra entrare nel fianco, ma quanta roba c'è, ma tanta di quella roba, ma che cosa la fa arrivare, ragazzi? Magari non riesce più a capire cosa c'è, cosa non c'è, capito? Un peccato, perché quando c'era l'altro, cazzo, se riusciva a andare avanti, mi diceva, ma adesso cazzo, vai là, sta tre ore e non riesce a trovare cosa riesce a cercare, cazzo. No, non c'è più niente, tu hai tirato adesso e perdi solo tempo. Mi chiedi una cosa, non c'ho più niente, mi ha detto. Ma l'unico che c'ha baracchini è cosa? L'ho visto l'altra volta quando sono entrato a Marsia, gli ho ordinato 4-5 di apparecchi nuovi, belli della Midland, solo. Ci sono dei portatili, anche per merda addirittura, già pronti. Si sta rifornendo Marsia, meno male, dalla Midland. Quindi. Io quando passo la mattina quello che non c'è più chiuso, ma chiuso o cos'è? La mattina vende adesso tutta la roba GBC, vende, poi evidentemente gli ha dato il sotto tutto a Torino, che Torino sta diventato adesso un negozio normale qui. O deve andare in pensione, cosa nel gioco, magari si fa fuori tutta quella bandozza che gli è rimasta e poi prende e chiude tutto, esatto, perché se era di vicino a Fusaro, io penso che De Tonino, Massimo Lano, una volta che ha fatto fuori tutta quella roba che c'erano, non gli mandava più niente. Ma quella Fusaro, questo che ci ha detto, un giorno sono andato e mi sentiva uno stilotto per le cuffie, quello il maschio è la femmina, quello piccolo. Cioè, il maschio dicono, quello piccolo dicono, non si trova, cosa non si trova? Strano è, non riuscite a trovare quello stilotto delle cuffie piccolo, quello mono. Quello non sa ancora cosa c'ha, cosa non c'ha, mi sembra un po' strano quel tipo, mentre invece quello là, quell'altro già sapeva cosa c'era, cosa non c'era. Quello sì. Io ti spero per cuffie che ne so, sembra che ne avevo uno o due di quelli lì, devo cercarli, vediamo che ho messo, se non si per cuffiette, se no mi ha agganciato i tre cavi, che costiamo sempre, quando c'è un paio di cuffie che non funzionano, taglio il cavetto e mi rimangono, rimane lo spinotto che rimane, col capo, capito? Vediamo un po' se è stato Giuseppe è ancora un po' lì. Così non mi sa se non ci riesci più a trovare niente, non c'erano più niente. Dai te però, se uno l'ordina già te lo mandano, però magari deve prendere uno, magari 10-12 già te lo mandano, no? Lo so per uno se ti conviene, cazzo, che ne hanno pensato di pigliare un minimo almeno 5-6 di questi, no? Capito? Quindi bisogna cercare il negozio che vende componentistica e mi serve questo e te lo fai mandare, capito? Però bisogna vedere chi è che vende materiale di componentistica, capito? Bisogna fare una ricerca su Google. Che è il negozio che vende componenti elettronici. Ma forse è stato un po' lungo, non lo so, prima si riusciva a trovare tutti i siti, adesso c'è la roba digitale, mi sembra, forse per quello. Già già sta morendo tutto, per cui forse anche per quello. Non si è trovato niente. E cosa vi fate? Ormai le cose stanno tutte cambiando, non è? Già lo so che le cose stanno cambiando, già avete l'accordo, infatti. Siamo messi male a tante, prima c'erano tre negozi, Melchiori, Toso, dipendeva di tutto, e c'era la scelta dove poter andare. Anche grazie ha fallito, quindi si è sceso in quasi adesso, grazie, non le vede più né ricevitori né parabole né tubo, ha fallito e basta. Prima si è fatti milioni con le parabole a pagare agli altri. Oh, da molto ha fallito. Aspetta Giovanni, devo fare la cena a Simona, ci sentiamo fra una cena di minuti. Vabbè, la sonerà. Ci sentiamo eventualmente già. Il telefono si è messo per il numero di Giuseppe, ok. Sentiamo, saluta Giuseppe Candurietto, vai. Ciao Antonelli, grazie per la chiacchierata. E di niente, Giovanni, ci sentiamo. Stavi bene, ciao anche a te. Ebbene, aspetta che devo fare la cena a Simona, già dietro fa 5 minuti. Ok.